Un'estate quante cose può scoprire, quante ne può rivelare, quante ne può raccontare. Io allora no, non mi accorgevo, mentre il tempo mi passava davanti, che già perturbavi la realtà. Poi la prepotenza di un inverno cancellava il poco tempo che passavo io con te. Con l'orecchio teso io rubavo melodie e canzoni, un dolore giovane che compariva già. Un inverno poche cose può scoprire, mi imbattevo nell'amore e iniziavo già a capire. Un po' troppo lontani ma vicini, dritti i nostri cammini, la dolcezza che si consumava già. Poi ci addentravamo nella vita e tu eri già stupita quando a volte non ti pensavo ancora. Ce ne andammo tutti e due in vacanza, tu lontano ed io al mare ed un angolo di paradiso già. Una sera in riva al mare un fuoco acceso e una voglia insaziabile di te. Una sbronza con gli amici, due risate e canzoni urlate al cielo e una voglia ancora più forte di te. Il ritorno a casa e poi la scuola, e la sera ti aspettavo per tornare ad essere soli, io e te. Poi ancora una nuova estate e chissà come andrà a finire. Oggigiorno io non mi so trattenere, non capisco più il piacere, dove arrivi e dove c'è dolore. Non capisco più cosa sia l'amore, il perdono e l'ossessione della solitudine. Ma una volta c'eravamo noi, c'eravamo solo noi, contro il mondo, contro il tempo. Sappi solo che tu sei la mia eroina, mia salvezza, mia regina, non ti spegnerai mai.